la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, 16:30 primi 38 secondi in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast. Appunto, Oscar Giannino vi dice subito di che cosa parliamo. Un approfondimento traendo spunto da un libro che a me è piaciuto tantissimo, l'ho divorato e che ho, la cui esistenza ho scoperto solo ieri, a dire la verità, colpa mia, dedicato a un'analisi fattuale, numeri alla mano e in termini comparati del fenomeno che investe l'Italia, cioè quello dei migranti, profughi, barra profughi, due cose diverse, ma insomma che oggi hanno nel Mediterraneo centrale, nel meccanismo in atto per le due missioni europee e le navi delle ONG, di fatto i porti italiani come unico corridoio aperto di accesso all'Europa. È un libro la cui esistenza, ne sono grato, devo a Nicola Porro, che ieri lo ha pubblicamente lanciato segnalandolo per i lettori. Non aveva torto dal mio punto di vista Nicola, perché prendendolo in mano sono poco meno di 150 pagine fitte, seppur non a corpo piccolissimo. L'editore è Segno Editore. L'autore è Anna Bono. Anna Bono è stata ricercatore in storia e soluzioni dell'Africa presso il Dipartimento di Cultura e Politica e Società dell'Università di Torino fino al 2015. Ha più volte negli anni, nei successivi decenni, soggiornato compiendo ricerche sul campo in Africa, in Kenya. Ha collaborato con diversi istituti di studi dell'Università Pontificia Regina Apostolorum, ha diretto il Dipartimento Sviluppo Umano del Centro Europeo di Studi sulla Popolazione, Ambiente e Sviluppo, ha collaborato in passato con il Ministero degli Affari Esteri nel Forum Strategico, e scrive e collabora con molti mass media su questi temi: Africa, paesi in via di sviluppo, relazioni internazionali, emigrazione. Ha scritto molte centinaia di articoli, saggi divulgativi sui temi dei paesi in via di sviluppo, soprattutto con attraverso i mass media di area cattolica, e si vede anche poi da moltissime fonti citate in questo libro, che si intitola, ripetuto tre volte, migranti con il punto esclamativo interrogativo, quindi migranti, edizioni Segno, e l'autrice, che ringrazio di essersi resa disponibile questo pomeriggio, è la dottoressa Anna Bono. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Poi buon pomeriggio a tutti. Allora, perché in poche parole, prima di iniziare a fare domande e far parlare l'autrice di questo libro, mi ha colpito? Perché rifugge da ogni, tra virgolette, luogo comune, nel senso che parte da una definizione precisa, strumenti internazionali alla mano, di che cosa sono i rifugiati e chi ne ha diritto secondo la Convenzione internazionale di Ginevra, aggiunge che al riconoscimento per coloro che provengono da questi paesi esistono due altre possibilità nel nostro paese di riconoscimento con criteri un pochino più ampi dello status temporaneo, comunque, di colui che, pur non avendo il pieno diritto a essere riconosciuto rifugiato, viene comunque riconosciuto come in pericolo in caso di ritorno, e allora gli diamo un sostegno equiparabile, sia pur a tempo. Analizza il fenomeno dei flussi negli altri paesi europei e ci spiega perché alcuni di essi, a cominciare dalla Svezia, che pure avevano un'apertura enorme nei confronti dei rifugiati, hanno poi dovuto ammettere, numeri alla mano, che comunque erano costretti a cambiare politica, perché a fronte di quelli che avevano ricevuto, il numero di coloro che nel tempo successivo trovava occupazione legale era comunque molto basso. Compie una analoga analisi per quello che riguarda la Germania, che ha accolto 1.200.000 persone tra il 2015 e il 2016, e che però ne ha visti a fine 2016 orientati al lavoro poco più di 44.000 su una cifra di quel tipo, e in base a questo analizza quindi la condizione del nostro paese, virgola, fa il numero di coloro che in questi anni di esplosione del corridoio solo italiano, poiché noi riconosciamo a pochissime migliaia, vedremo quanti, sul totale di coloro che arrivano lo status di rifugiato, di fatto per l'inefficienza del nostro sistema accettiamo che diventino clandestini, prima di 2 anni fa andavano al resto d'Europa, adesso invece destinati a restare qua. E quindi arriva a delle conclusioni. Le conclusioni del volume però per buona parte riguardano anche il famoso aiutarli a casa loro, perché dopo aver analizzato per paese i paesi da cui proviene il più dei flussi, cioè nel nostro caso paesi non gravati da guerre, e dopo aver dedicato molti bellissimi capitoli con fonti locali, conoscenze locali, nello spiegare perché dalla Nigeria, dal Mali, eccetera, eccetera, vengono nel nostro paese, magari e spesso anche appartenenti a quelli che localmente sono ceti quasi medi, naturalmente a parità di potere d'acquisto da noi sarebbero alla base della piramide sociale, ma non in quei paesi, semplicemente perché convinti che da noi si stia meglio, arriva poi anche a un esame dettagliato e numeri alla mano della quantità di risorse finanziarie che si riversa nei paesi africani, sia per investimenti diretti, sia per programmi di aiuto allo sviluppo, sia per le rimesse che coloro che stanno al resto del mondo avanzato di quei paesi indirizzano poi ai propri familiari lì. E si scopre che magari in un anno le risorse, sommando queste tre quote, sono elevatissime, cioè sono nell'ambito dei 1.200 miliardi di dollari, sì, avete capito bene, analizzando come e perché dei programmi internazionali, in molti di questi paesi, la parte preponderante resta appiccicato ai polpastrelli delle classi dominanti totalmente opache che se li inguattano. Allora, siccome ci sono in questa analisi tanti punti documentati che non trovano riscontro nella descrizione contrapposta, per così dire, sia quella aperturista che dice è un fenomeno di fronte al quale non si devono e non si possono porre filtri, sia di coloro che dicono tiriamoci fuori, tranne che poi si difetta nelle soluzioni, a me sembra un libro davvero degno di essere raccomandato alla vostra lettura. Quindi innanzitutto grazie all'autrice, ad Anna Bono. Che cos'è che la spinge ad avere questo criterio così freddamente realistico come prima domanda? Beh, io sono stata docente universitaria, sono un ricercatore, ho fatto questo per tutta la vita, e quindi quando mi accosto a un problema parto da dati, testimonianze, fatti concreti, e questo è il mio lavoro. Mancherei al mio compito se così non facessi. Questa la mia attività è sempre stata questa, e anche se non sono più docente universitario, comunque rimane la mia attività quotidiana. Allora, partiamo dal presupposto delle percentuali bassissime di coloro ai quali l'Italia riconosce negli ultimi 2 anni, rispetto al totale delle domande presentate e al totale di chi sono sbarcati, lo status di rifugiato. È giusto così? È applicazione del diritto? Che cosa ci dice questo dato? Questo dato ci dice, intanto forse è il caso che lo citi, certo, che gli citiamo questi dati. Nel 2016, l'anno scorso, su oltre 181.000 arrivi in Italia e più di 123.000 richieste di asilo, ne sono state accettate 4.940. L'anno prima, quando gli arrivi sono stati 153.000 e poco più, e le domande hanno superato di poco, le richieste di asilo hanno superato di poco le 90.000, sono state accolte 3.555 richieste, quindi 3.555 persone hanno ottenuto lo status di rifugiato e tuttora lo mantengono. I criteri per decidere, ci sono delle commissioni che svolgono questo lavoro, i criteri sono criteri internazionali, previsti ormai da decenni da una convenzione, la Convenzione di Ginevra, che è stata creata negli anni 50 proprio per affrontare il problema di chi a casa propria, nel proprio paese, è in pericolo per due, può essere in pericolo la sua vita, la sua libertà, per due motivi: o perché è perseguitato dal proprio governo, o perché perseguitato, minacciato da altre entità, il suo governo non è in grado o non è disposto a proteggerlo. Dandosi queste condizioni, chi lascia il proprio paese oltrepassando la frontiera illegalmente si vede accolto, perché la Convenzione di Ginevra all'articolo 31 prevede che chi chiede aiuto, chi espatria, a queste condizioni deve essere accolto, e all'articolo 33 dice non solo deve essere accolto, ma finché questa situazione di pericolo permane non può essere rimandato in patria. Noi in Italia abbiamo due altri, tra virgolette, istituti, diciamo così, paragonabili sia pure a tempo, che concede. Sono due altre forme di protezione. Una è la protezione sussidiaria, che viene data a persone che non rientrano in questa categoria, ma si ritiene che se rimpatriati correrebbero qualche tipo di pericolo, incorrerebbero in qualche tipo di pericolo. La seconda forma di protezione è un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Francamente non so dire di più, perché il Ministero dell'Interno, quando spiega questo tipo di protezione, la spiega ripetendola in sostanza. Dice chi ottiene un permesso di soggiorno umanitario che gli viene accordato per motivi umanitari, di più non si dice. Quindi è una definizione, cioè diventa una categoria molto molto ampia. Allora, dalla donna... visto così, in base a queste semplici cifre, è chiaro il problema italiano, nel senso che noi abbiamo un numero di coloro che sbarcano, che hanno diritto per norme internazionali al riconoscimento della qualifica dei rifugiati, molto basso. Cioè noi arriviamo neanche a poco meno del 2% del totale della popolazione italiana, di quelli che ospitiamo. Per capirci, in Germania siamo a una percentuale superiore al 4%, in Svezia addirittura, stiamo parlando solo dei rifugiati abitanti, addirittura il 17,5%, quasi il 18% ogni 1000 abitanti, capite, la Svezia. Faccio questo esempio della Svezia proprio perché colpisce molto, leggendo il suo libro, che pur avendo appunto una politica iperaperturista, avendo seguito la Svezia, stiamo parlando dei rifugiati e non dei migranti economici, poi ci arriviamo, che è la specificità del nostro paese, pure la Svezia ha dovuto dire signori, noi non ce la facciamo più, perché in realtà rispetto ai 150.000 rifugiati a cui abbiamo aperto le porte, i risultati nel tempo dei sistemi di integrazione, di ricollocazione al lavoro che pure la Svezia ha adottato, hanno visto una percentuale di coloro che lavoravano nel tempo molto bassa, è così? Sì, infatti. Nel 2015 la Svezia, che è uno dei paesi più ambiti dagli emigranti, perché l'ospitalità fornita da Svezia, Norvegia e altri paesi del nord è sempre stata esemplare, mitica. Ecco, la Svezia nel 2015 ha lasciato entrare sul proprio territorio più di 160.000 persone. Mesi dopo, una verifica ha portato a una considerazione, a una rilevazione inaspettata, e cioè che nel corso dei mesi, quasi un anno, neanche 500 persone erano riuscite a trovare un lavoro regolare. Questo, la conclusione delle autorità svedesi è stata: tutte le altre persone continuano a dipendere del tutto in parte dall'assistenza pubblica privata, e o svolgono attività irregolari, attività in nero e peggio ancora. È una situazione, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale, pericolosissima, a cui bisogna porre rimedio, perché è insostenibile. E sottolineo, perché è importante, sia dal punto di vista economico, è superfluo che mi dilunghi su sulle conseguenze di una simile situazione, ma anche dal punto di vista sociale, perché ovviamente chi non lavora, chi vive di assistenza, diventa anche non solo un peso economico, ma anche un problema di carattere sociale. Non si può parlare di integrazione, questa parola così usata insieme al termine accoglienza, se prima di tutto una persona in un paese straniero non diventa economicamente indipendente e si inserisce in un contesto lavorativo regolare. E anche i dati tedeschi, sia pure su ordine di grandezza diversa, ma ordine di grandezza diversa rispetto a più di 1 milione di persone in 1 anno e mezzo, ma comunque i dati più aggiornati che vengono citati nel libro sono intorno a 44.000, se non ricordo male. Sì. Ecco, sono 44.000, quindi l'ordine di paragone tra numeri di queste proporzioni indicano che il percorso di integrazione è lungo, quindi assorbire enormi arrivi in unità temporale crea inevitabilmente sproporzioni, perché il più resta a carico della macchina pubblica. Ma dopo il minuto di informazione sul traffico andiamo alla questione che invece riguarda l'Italia, cioè i migranti economici, perché noi siamo da 2 anni con il flusso maggiore che viene dalla Nigeria o paesi che non rientrano, tranne la parte della Nigeria interessata da Boko Haram. Però il libro è straordinario perché raccoglie un mucchio di testimonianze sul come e il perché chi è venuto qui, che ne so, io ignoravo per esempio che la portiera della nazionale di calcio al Senegal fosse venuta attraverso i barconi, è una storia terrificante, la solita, deserto, Libia, sopraffazioni di ogni tipo eccetera eccetera, rischiare la vita per l'Italia. Allora uno dice, ma come la portiera della nazionale? Ecco, è un libro straordinario perché centra il focus esattamente, perché da questi paesi, che cosa c'è dietro, non solo criminalità delle grandi reti in Libia, a dire la verità, e a quel punto cosa diavolo davvero possiamo fare senza sbattere le porte in faccia, ma essendo realisti. Tra un minuto. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, e subito devo correggermi perché purtroppo la 19enne Fatim Yavara, che era la portiera di squadra nazionale femminile di calcio, era del Gambia, non del Senegal. Però anche nel caso del Gambia stiamo parlando di un paese dal quale il flusso che viene è anch'esso tra i paesi che originano i flussi più rilevanti di coloro che sbarcano in Italia. C'è poi la parte che viene invece dal Corno d'Africa e che passa attraverso Sudan per arrivare in Libia, però anche in quel caso una portiera nazionale, la nazionale femminile, non si capirebbe bene perché si affronta questa cosa. Lei è morta, tra l'altro, è morta a settembre 2016 in un naufragio di un gommone che da Misurata la portava a Lampedusa. Ecco, la parte che a me ha colpito di più, probabilmente avendo un po' a che fare con i numeri che abbiamo citato fino a questo momento, è esattamente quella di tutta la parte centrale del libro, dedicata paese per paese a capire e a spiegare perché di là vengono questi flussi, dovendo raccontare ai nostri ascoltatori cosa ci direbbe, proprio a partire da questo caso tragico di questa ragazza che era un'affermata nel suo paese, si direbbe o no? Beh sì, lei era nella nazionale di calcio femminile, aveva già giocato anche all'estero, senza consultarsi, a quanto pare senza consultarsi con nessuno, a un certo punto è partita. Disgraziatamente è una delle persone che non sono riuscite ad arrivare, è morta nel Mediterraneo, come lei ha giustamente detto. E io ho letto le interviste fatte alla sua allenatrice e ad altre persone. E tutte dicono la stessa cosa: non ci capacitiamo, non riusciamo a capire perché abbia fatto una cosa del genere. Aveva realizzato il più grande dei suoi sogni e il sogno di centinaia di ragazze qui in Gambia. Stesso discorso, in combinazione proprio dal Gambia, per un lottatore di wrestler affermatissimo, molto, molto apprezzato, e che anche lui è morto in un naufragio nel tentativo di raggiungere l'Italia. Stesse domande da parte di chi lo conosceva, perché ha fatto una cosa del genere, qui aveva tutto ciò che poteva desiderare e un futuro lo aspettava. Io mi sono data una risposta: qualcuno ha messo in testa a questa ragazza di 19 anni, questo lottatore, e come loro a tante altre persone, ha messo in testa questa sei affermato, qui hai avuto successo, se vai in Europa troverai degli ingaggi milionari e diventerai ricchissimo, famoso in tutto il mondo, e loro sono partiti. Io voglio essere sincero, perché vedo già gli sms. Nel libro non si nega che ci siano condizioni di parte da ciò che origina i flussi, in cui ci sono le violenze contro le donne, la logica dello scontro tribale e così via, però resta un fatto che la stragrande maggioranza del flusso che interessa l'Italia sembra più nei racconti che vengono fatti alle autorità italiane da chi sbarca il tentativo di ricondurlo a quello, piuttosto di quanto non sia nella realtà. Mi sbaglio? La maggior parte delle persone, ci sono due motivazioni che vengono date più frequentemente, una di carattere prettamente economico, il ragazzo senegalese che vende la mandria di bestiame perché vuole andare in Europa, perché là si sta meglio, là si guadagnano un sacco di soldi, il ragazzo sempre senegalese che fa l'imbianchino, mette da parte soldi per tutto il tempo necessario e poi parte perché in Europa si sta molto meglio e si guadagnano un sacco di soldi. Altre invece motivazioni riguardano minacce, situazioni di violenza soprattutto familiari, ci sono molte donne che sostengono che di essere fuggite perché il marito ha tentato di ucciderle, perché hanno perso i genitori e gli altri familiari sono duri con loro, hanno subito delle minacce. Queste però mi sembrano più motivazioni da verificare, e soprattutto qui entriamo, quando si tratta di donne giovani, in una zona in situazioni un po' diverse, perché io sospetto che spesso si tratti di vittime di tratta, cioè di donne, e d'altra parte il Senegal ce lo conferma, di donne che sono state convinte o i cui parenti sono stati convinti ad affidarle a dei trafficanti. Esatto. Facendogli balenare, ci sono dei cartelli nelle strade delle città nigeriane che lo dicono, illustrati, facendogli balenare, vieni in Italia, troverai lavoro, troverai un marito, se sono più piccole andrai a scuola e poi… E invece finiscono chiaramente nella tratta di carne umana sulle nostre strade e così via. Infatti. Però il punto di fondo è che dopo aver, ripeto, per molte pagine si imparano cose amarissime, la conclusione non è anche indifferente rispetto ai tanti denari che vanno verso l'Africa, ai tassi di crescita africani che in questi paesi, non quelli devastati dalla guerra, sono naturalmente la posizione di partenza molto più bassa, ma multipli rispetto ai nostri, 6-7% annui, perché questi sono i tassi, Senegal, Nigeria e così via. E la conclusione diventa, che è una conclusione sfidante anche rispetto a quello che sembra invece la posizione porta aperta della Chiesa cattolica, diventa invece la cosa, porte aperte, nessuno può essere di fronte al diritto, anche alla migrazione, che non è il diritto all'asilo dei profughi, è un'altra cosa, però questo non può essere chiesto a nessuno, di ignorare che siamo in presenza di un fenomeno che ha bisogno, in una condizione come quella italiana, purtroppo di chiudere più che spalancare, o sbaglio? Non sbaglio, no, perché vede, nel mio libro io dico una cosa su cui mi voglio soffermare un momento, se ho ancora tempo. Certo. Questo di cui stiamo parlando è un fenomeno anomalo, del tutto anomalo, perché non si dà nella storia umana, qualunque siano le motivazioni che inducono una persona a lasciare un paese, e giustamente il diritto a espatriare è un diritto riconosciuto, che va riconosciuto, ma non si danno nella storia recente, ma anche più remota, situazioni come questa, cioè di persone giovani, in condizioni non tutt'altro che disperate, che lasciano un continente problematico, ma con enormi potenzialità e con performance economiche notevoli, tra l'altro notevolissime in certi casi, ecco, non si dà che masse di persone così ingenti emigrino in un continente in difficoltà come l'Europa e tanto più in un paese come l'Italia. Il motivo per cui l'integrazione economica, che è la prima condizione necessaria, non si realizza è prima di tutto per il fatto che in Italia il 40% della popolazione giovane, proprio la stessa fascia sì, di età, sì, esattamente. Ecco, proprio la stessa fascia di età delle persone che non che, è che migliano, al lavoro. Cioè, allora io la devo purtroppo fermare qua. Io spero di aver dato a chi ci ascolta gli spunti per una lettura. Questo non è un libro di propaganda politica, questo è un libro di fredda analisi, ma diritto alla mano, numeri alla mano, arriva alla conclusione che la richiesta italiana noi dobbiamo